Allora, signore e signori, a me soltanto un indirizzo pratico di avviamento, però il saluto formale lo porge il vicepresidente dell'Istituto Trentino di Cultura, il commendatore Fausto Gobbi, che rappresenta qui anche il presidente Kessler e in certo qual modo il padrone di casa dell'ambiente in cui noi ci troviamo. Dopo. Ecco, a nome del Presidente, Senatore Kessler, e del Consiglio d'Amministrazione, porgo a tutti i convenuti a questo interessantissimo simposio, congresso, gli auguri migliori di una buona riuscita. Io devo in questa occasione ringraziare ancora una volta Monsignor Roger, Direttore dell'Istituto di Scienze Religiose, che uno dietro l'altro sta organizzando una serie di convegni di alto interesse culturale che fanno onore al nostro istituto e che ne danno la ragione del suo essere. Io non voglio tediarvi nel enucleare, nel numerare tutte le iniziative che in questi ultimi tempi sono state realizzate da questo istituto di scienze religiose e dal suo la sua locomotiva, diciamo, Monsignor Roger, perché sarebbe distrarvi dal compito principale della riunione di oggi, ma indiscutibilmente anche questo costituisce un mattone in più che giustifica l'esistenza dell'Istituto e gli sforzi anche del Consiglio di Amministrazione per mettere a disposizione dell'Istituto stesso i mezzi necessari al raggiungimento dei suoi scopi culturali. Buon lavoro, grazie. Anche il mio intervento è puramente di preambolo, quindi deve essere telegrafico, soltanto che non mi so astenere dal dire una parola di apprezzamento per la tematica oggi presentata, che per un verso sviluppa così a tappe un tipo di incontro vero destinato in massima parte a filosofi dei due ambiti linguistici italiano e tedesco, vero? Secondo un modulo che il nostro professor Penzo ha divinato fin dall'inizio e che porta avanti con molta sensibilità e con grande competenza. Il merito principale, come ormai gli habitué di questi incontri sanno, è soprattutto suo, vero? Ma credo anche che questa volta dobbiamo riconoscerli in un modo particolare il merito di aver messo a fuoco, più che le altre volte ancora, un interesse che va direttamente dritto verso la teologia, e anche se in campo di teologia speculativa o di filosofia mi trovo un po' fuori del campo mio proprio di storico, tuttavia credo che non occorre molto per accorgersi intanto della rilevanza della figura e del merito di un filosofo come Heidegger e insieme di quello che è lo stimolo, direi ancora di più, quasi il ruolo di interprete di tutta una sensibilità teologica che è del nostro tempo. Siamo veramente grati ai cultori di filosofia che questa volta pongono l'attenzione sui rapporti teologia e filosofia di Heidegger. Certo tutti sappiamo e ci rendiamo conto quanto è complesso, visto anche che nel novero delle relazioni e comunicazioni, insomma, da un lato si parla di radici cattoliche nel pensiero di Heidegger, dall'altro si mette la domanda sulla possibilità del divino in Heidegger, indubbiamente la figura è poliedrica e presenta un'apertura di problemi difficile da sondare, ma mi pare di capire intanto che Heidegger si colloca in pieno o interpreta come quasi di un, per un senso nevralgico la problematica del pensiero cristiano e teologico del nostro secolo, tutta questa storicizzazione della teologia e della ecclesiologia e della storia della salvezza e del modo con cui si considera il messaggio della scrittura e così via. Ecco, io penso non l'ha inventato Heidegger, però trova in Heidegger infiniti stimoli e aiuti anche nel formulare, nell'approfondire, nel concettualizzare, meglio nel intuire correttamente questo mondo di cose che è quello che sta decisamente trasformando anche il volto della teologia e il volto della Chiesa nel nostro secolo. Qualcuno ha parlato di una Thomistische Heidegger-Schule che in questo nostro secolo si va sviluppando, ed è stato fatto il nome di Gustav Sievert, che ricordo volentieri anche in questa sede, tra parentesi, ma non fosse peraltro per il fatto che è morto a Trento, forse a qualcuno di loro può anche interessare, vero? E poi insomma l'esponente più vivido di tutto questo mondo di cose, Karl Rahner, vero, che in questo sfondo filosofico veramente ha divinato tutta l'interpretazione, la reinterpretazione della teologia del nostro tempo. Ecco, la teologia del nostro secolo si è largamente confrontata, ma di un confronto che non è quello che si faceva una volta così per analizzare, contrapporre idea a idea, ma un confronto vivo fatto di stimoli, di incentivi e così via col pensiero di Heidegger. E perciò credo ben che questo convegno, tra tutta la serie organizzata dal nostro caro professor Penzo, per noi come tematica è il più interessante. Ecco, detto questo, io non posso che rinnovare i ringraziamenti al professor Penzo, a colui che lo ha aiutato efficacemente e che ha in mano anche in questi giorni le redini un po' dello sviluppo minuto, direi la segreteria concettuale del convegno, che è il professor Nicoletti, a cui devo in particolare riconoscenza in questo caso anche per il molto grande sacrificio di tempo e di competenza che questo esige. Tutti i relatori, vedo nomi illustri e illustrissimi, e tutti gli ospiti che vorranno partecipare anche al dibattito, al colloquio. Ho visto che nel programma ci sono spazi abbastanza ampi anche dedicati alla discussione, a tavole rotonde e così via. Mi auguro che questo confronto fatto in un ambiente come il nostro, che è un istituto aperto da tutte le parti, diremo, pur incentrato nell'interesse delle scienze religiose, ma che è fatto apposta per accogliere un dialogo schietto, reale, storicamente vivo, vero come al nostro tempo occorre. Spero che appunto tutto questo possa costituire anche un ambiente favorevole per approfondire il pensiero. Ecco, ho da portare in modo particolare il saluto dell'Arcivescovo di Trento che, motu proprio, visto il programma, ha sentito il bisogno di raccomandarmi di dire in questa occasione la sua adesione, il suo interesse spirituale proprio per il complesso di tematiche che qui sono state esposte. È il caso più illustre, gli altri non li ricordo nominativamente, ma è quello che più di tutti in questa occasione mi è stato raccomandato di esprimere, vero, come adesione e come augurio. Allora passo la regia al professor Penzo e auguro a tutti buon lavoro. Io ringrazio soprattutto Monsignor Roggio, magari sarete qui due minuti. A Monsignor Roggio dobbiamo un enorme ringraziamento, soprattutto mi è piaciuto ciò che lei ha detto adesso e queste due frasi: l'Istituto di Scienze Religiose è aperto da tutte le parti e storicamente vivo. Io direi da alcuni anni ho la gioia, direi anche l'onore di essere presente in questo istituto, e credo che queste due espressioni sintetizzano molto bene l'humus culturale e anche spirituale che c'è, che vige in questo istituto. Cioè non c'è dogmatismo, c'è apertura. Per questo direi Heidegger e Nietzsche sono sempre presenti, Jaspers, sono autori che spaccano, che rompono e che aprono, e ci aprono il sacco in tutte quante le parti. E allora direi, non so, sarei ancora commosso di fare un nuovo ringraziamento al professor Roger, perché è lui che è riuscito, è lui che riesce a tenere vivo questo, perché altrimenti non si potrebbe, è chiaro. Poi potrei ringraziare tutti i tedeschi, i professori tedeschi che sono qui, sono tutti nomi noti. Se mi soffermo ognuno è lungo, però voi li conoscete, sarebbe anche, non avrebbe senso presentarvi, no? E prima si parlava anche di alcuni professori come Rane, che sono morti, eccetera, e abbiamo rappresentanti come padre Korek e padre Muck di Innsbruck, che portano avanti la tradizione, quindi abbiamo anche questa tradizione di Rane qui presente, tutti i grandi personaggi che hanno cambiato completamente il pensiero teologico, per cui non si può fare teologia al mondo, non in Italia, in tutto il mondo, senza che si passi attraverso questi autori. Io faccio un ringraziamento anche all'amico Nicoletti, che è stato così bravo, che ha seguito tutto, perché io solo faccio un po' di confusione di organizzazione, se non ci fossero loro sarebbe un disastro, un macello. Poi vedo qui presente anche il padre Gibellini, bisogna un po', c'entri, perché Gibellini è uno che c'entra, perché Gibellini ha preso in mano la teologia da 20-30 anni e l'Italia, grazie anche a Gibellini, è cambiata, la cultura italiana è cambiata, perché qui abbiamo veramente un grande editore, diciamo, abbiamo anche un rappresentante dell'editrice Marcelliana, che sono editori che hanno cambiato la cultura italiana, per cui anche un ringraziamento, un applauso a tutti i due rappresentanti. Ecco, allora, riguardo al programma, abbiamo... microfono, se facciamo finta di sentire. Riguardo al programma abbiamo alcuni che non sono potuti venire perché c'è stata la questione dello sciopero. Il treno doveva scioperare, il treno che sciopera. Allora praticamente hanno preso paura e hanno preso altri impegni, per cui manca Quinci, mancano diversi personaggi di rilievo, e loro hanno preso altri impegni e non sono potuti venire. Ecco. E allora quindi qui non c'entriamo noi, non c'entra l'organizzatore, non è che se organizzo io va tutto male, però qua c'entra anche altre questioni, insomma, questioni diverse. E allora la prima parte, dopo facciamo una pausa, i referenti ci sono tutti, quindi praticamente il sottoscritto, Korek e Questioner. Nella seconda pausa invece i referenti non ci sono, e allora entrano, sostituiscono, che sono sempre pronti in panchina, Zanatta e Penatti. Ecco, quindi facciamo una piccola pausa e dopo parlano Zanatta e Penatti, va bene? Allora, dato che c'è 5 minuti di più, parlo, scusate, va bene? Ecco, stiamo preparando le cartelle con le sintesi delle relazioni, sia delle relazioni italiane che delle relazioni tedesche, almeno per i testi che ci sono stati inviati. Siccome alcuni di questi testi ci sono arrivati solo negli ultimi giorni, qualcuno addirittura ieri, stanno finendo di fotocopiarli, allora dopo la relazione del professor Penzo faremo solo 5 minuti di pausa per consentirci di distribuire le cartelle ai partecipanti. Grazie. Ecco, allora... cioè il titolo della relazione è Se l'essere sia capace di Dio. Si sente? Sì. L'eredità che Heidegger lascia alla cultura del nostro tempo non investe soltanto l'ambito strettamente filosofico, ma pure quello della letteratura, della storia, della scienza e in modo particolare quello della teologia. Ciò può sembrare strano, dato che nei suoi scritti Heidegger non si stanca di proteggere il suo pensiero da una qualsiasi caduta nell'ambito teologico. Analizzare questo possibile risvolto teologico del pensiero di Heidegger non vuol dire fare della teologia, ma significa soltanto chiarire ulteriormente il pensiero stesso di Heidegger. si sa che egli riconduce di continuo tutte le analisi culturali di fronte al problema fondamentale del passo indietro, che ha il compito di portare il filosofare di fronte al suo fondamento ultimo. Lo stesso ha luogo ovviamente nelle riflessioni a livello teologico. Quale filo conduttore di questa indagine segue un pensiero che si legge in Sentieri interrotti, laddove Heidegger si chiede se mai l'essere sia capace, Fais, sia capace di Dio. Si tratta in fondo di quel particolare rapporto tra essere e Dio che si può trovare già in Nietzsche e che viene ulteriormente portato avanti pure da Jaspers. Da anni scavo in questo terreno, non tanto per amore culturale, per conoscere cioè la nuova problematica teologica, ma mosso solo da un amore strettamente filosofico. Mi propongo di cogliere da una parte fino a che punto sia possibile portare avanti la citata affermazione di Heidegger senza far violenza alla tematica della differenza ontologica che rappresenta l'asse intorno al quale ruota il filosofare heideggeriano. Così cerco di vedere dall'altra fino a che punto la nuova teologia ispirata a Heidegger faccia proprio un discorso tipicamente heideggeriano senza far violenza al Dio della rivelazione biblica. Ci tengo a sottolineare che non si tratta di problematica religiosa e quindi di interpretazione religiosa del pensiero di Heidegger. La religione può assumere l'aspetto di sacralità inautentica quando si sottolinea in essa la dimensione di essere legato all'oggetto. Sotto questo aspetto, la religione non viene superata soltanto dai filosofi dell'esistenza, come Nietzsche, Heidegger e Jaspers, ma pure dai teologi dell'esistenza, come Bultzmann, Gugart e Barth. Nel considerare l'eredità teologica, tra virgolette, di Heidegger, ci si trova ovviamente di fronte a due interpretazioni fondamentali, quella di pensatori cattolici e quella di pensatori protestanti. Tra i primi facciamo i nomi di Fabre, Lotz, Rahner, Welt, Guardini. Tra i secondi si possono citare alcuni rappresentanti della teologia dialettica, abbiamo citato prima Bultmann, Gugart, eccetera, e alcuni rappresentanti del pensiero esegetico come Fuchs, Ebeling. Per quanto riguarda il pensiero cattolico, si constata che se Lotz e Welt sono propensi, anche se con alcune riserve, a formulare un dialogo tra la problematica di Heidegger e quella dei pensatori cristiani, e in particolare di Tommaso d'Aquino, Fabre invece si rivela nei confronti di tale dialogo piuttosto critico. I tentativi di questi pensatori, che sono ad un tempo filosofi e teologi, ci mostrano come sia alquanto problematico un dialogo tra teologia cattolica e problematica heideggeriana. Meno problematico mi sembra il dialogo con la teologia protestante. Questo si deve al pensiero filosofico e teologico di pensatori come Meister Eckhart e Lutero, che vengono ripresi in modo particolare dal pensiero protestante. È significativo a riguardo il titolo dello scritto di Heidegger, Abbandono, Gelassenheit, che richiama tutta una tematica di fondo eckhartiana. Si può ricordare la problematica di Eckhart, della nascita di Dio, Gottesgeburt, che ha luogo a partire dall'interno stesso della decisione dell'uomo. Oppure la dottrina della scintilla, Finkelein, dove l'anima viene considerata come immagine di Dio, nel senso che nel creare l'anima, Dio cerca in fondo se stesso. Sotto un certo punto di vista, si può dire che Dio crea se stesso solo quando crea l'anima. Di particolare importanza è la dottrina eckhartiana della irruzione, Durchbruch, che presenta il modello esistenziale del superamento tipico della dottrina del rapporto soggetto e oggetto. Non c'è bisogno di sottolineare che a questa tradizione è legato pure Kierkegaard, il cui pensiero è la base della filosofia e della teologia dell'esistenza. Si può far notare che il limite di fondo che ricompare di continuo in questo colloquio tra pensiero heideggeriano e problematica teologica, compresa pure quella della teologia protestante, è dato dal fatto che il Dio del cristianesimo non può mai essere ridotto a pura dimensione di sacralità. E ciò anche se questa concezione cristiana di Dio viene sottoposta al processo della demitizzazione. Il Dio del cristianesimo si presenta infatti da una parte secondo una concezione di divinità ben determinata, come quella di Gesù Cristo, e dall'altra questa concezione viene custodita da una autorità, come quella della Chiesa, sia quella cattolica o protestante. Nell'introduzione a che cos'è la metafisica, Heidegger fa notare con rammarico, dopo aver rimandato i teologi a Paolo, come non solo in Lutero, ma pure in Paolo, la visione originaria del cristianesimo sia stata offuscata da sovrastrutture della tradizione ecclesiastica. Nonostante questa difficoltà di fondo, penso tuttavia che sia possibile mantenere aperto un colloquio con la problematica teologica dall'interno stesso del pensiero di Heidegger. Apro questo colloquio, cioè io parlo di un rapporto intrinseco tra problematica teologica e Heidegger, non di un rapporto estrinseco, intrinseco, quindi bisogna ridurre il massimo possibile tutti e due punti, i due colloqui. Apro questo colloquio tra dimensione filosofica e dimensione teologica in Heidegger, con una riflessione di fondo che investe nell'ambito della problematica dell'essere di Heidegger, il rapporto tra comprensione dell'essere e il pensiero metafisico. Si sa che Heidegger si propone di chiarire un nuovo modo di tematizzare il sacro al di fuori del pensiero della metafisica, sia questa classica o idealistica. Però Heidegger non può mai eliminare nella sua impostazione del problema dell'essere il pensiero metafisico. Quando egli parla della ben nota tematica della distruzione, del superamento della metafisica, non intende affatto alludere a una definitiva distruzione o a un definitivo superamento della metafisica. È ovvio quindi che questo rapporto intrinseco con la metafisica implica a sua volta un rapporto intrinseco con il Dio della metafisica. Nel rapporto intrinseco tra la differenza ontologica della problematica dell'essere e la metafisica, è possibile, a mio avviso, mettere in luce un duplice aspetto della metafisica, uno positivo e uno negativo. L'aspetto negativo della metafisica, proiettata questo ovviamente nell'orizzonte dell'essere di Heidegger, può essere messo in luce nel fatto che la metafisica rivela in fondo soltanto l'assenza dell'essere. E ciò per il semplice fatto che nella concezione heideggeriana dell'essere, come differenza ontologica, la metafisica mette a fuoco soltanto il momento ontico della differenza, mentre quello ontologico rimane appunto coperto e quindi assente. In altre parole, il pensiero metafisico riesce a chiarire l'essere solo come presenza nel senso di sostanza. Questa presenza viene tematizzata o come ente sommo o come perfezione assoluta e quindi come Dio. Di qui la necessità, nel contesto della problematica dell'essere come differenza ontologica, di superare la concezione ontica dell'essere che è appunto rappresentata dai diversi sistemi metafisici. Questo comporta a sua volta la necessità di superare i diversi volti metafisici di Dio. Però, ripeto, se Heidegger parla di distruzione e di superamento, non intende con ciò parlare di un definitivo superamento e di una definitiva distruzione. Di conseguenza, non intende parlare di una distruzione o di un totale superamento della teologia. L'aspetto positivo della metafisica viene messo in luce tenendo presente la dimensione della comprensione dell'essere. L'essere è in fondo sempre presente nel corso del pensiero metafisico, anche se nella dimensione di assenza. Se nella comprensione dell'essere, l'essere è presente come assente, ciò significa che tale presenza dell'essere è diversa dalla presenza dell'essere tipica del pensiero metafisico. Questa considerazione ci porta di fronte alla tesi di fondo dell'ontologia di Heidegger, secondo la quale l'essere è presenza ed assenza a un tempo. La realtà di tale dimensione dell'essere è intesa come darsi, come evento, come destino. Anzi, secondo Heidegger, nel corso del pensiero umano e quindi nel corso della metafisica occidentale, l'essere come presenza-assenza non solo si dà, ma deve necessariamente darsi. Ovviamente, Secondo la struttura dialettica dell'essere come differenza ontologica, nel momento che l'essere si dà, si nasconde come essere e si manifesta come essere rappresentato e quindi come ente, anche se nell'espressione di ente sommo. Ciò implica il concetto di verità hegeliano a livello dialettico polare come svelamento e nascondimento a un tempo. Il sottrarsi e perciò il nascondersi costituiscono l'orizzonte della differenza tipica della differenza ontologica. Di conseguenza, se Heidegger critica da una parte la metafisica perché ha falsificato la questione originaria intorno all'essere, dall'altra però, pure tale aspetto inautentico della metafisica come storia dei sistemi metafisici non può non essere giustificato, cioè deve essere giustificato, dato che esso si innesta appunto nella storia dell'essere come darsi. Secondo Heidegger, questo è il destino della metafisica da Parmenide a Nietzsche. Si è detto che tale destino della metafisica investe ovviamente la problematica di Dio, che nella metafisica viene considerato appunto come ente sommo. Di qui il necessario rapporto tra il Dio della metafisica e la dimensione dell'essere di Heidegger intesa come sacralità. Si tratta di un rapporto a livello intrinseco, questo è che voglio sottolineare. Questo può essere messo a fuoco nell'ambito dell'essere come differenza ontologica tra momento inautentico e momento autentico del Dio della metafisica. Non occorre dire che i momenti di inautenticità e di autenticità di un simile Dio non vengono considerati soltanto nell'ambito del pensiero della metafisica, ma nell'ambito del pensiero metafisico, considerato però nel contesto della comprensione dell'essere come differenza ontologica, che viene inteso appunto come un darsi epocale. Mi sembra allora che questo modo di considerare il rapporto del Dio del cristianesimo tipico della metafisica nell'orizzonte dell'essere come differenza ontologica, come sacralità, sia un rapporto dell'interno. Così, accanto al tentativo filosofico teologico, nel suo duplice aspetto cattolico e protestante, di chiarire il rapporto tra il Dio del cristianesimo e l'essere come sacralità di Heidegger, si può tenere presente questo ulteriore modo di porre e di portare avanti tale problematica del rapporto tra filosofia e teologia in Heidegger. Cioè, io direi, a prescindere dal rapporto che ha fatto il cattolicismo, cioè i pensatori cattolici con l'essere di Heidegger, e a prescindere da quello che ha fatto i pensatori protestanti con l'essere di Heidegger, ci può essere anche un terzo rapporto ab intrinseco filosofico. Ecco, direi, cioè, la mia tesi è questa, prescindo, pure giustificando tutti e due, è chiaro, prescindo, e voglio vedere un rapporto solamente dal punto di vista filosofico. Si deve cercare così di mettere in luce un terreno comune, ecco, una piattaforma comune, tra momento teologico della metafisica e momento teologico, sempre tra virgolette, del pensare secondo la comprensione dell'essere. Questo terreno comune è dato, a mio avviso, dal fatto di considerare il pensare non solo come un chiudersi nell'oggetto conosciuto, ma come un continuo aprirsi, ecco il terreno. Cioè, non solo secondo un conoscere, spiegare, che procede nel rapporto tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, ma in un superiore rapporto che procede oltre l'oggetto conosciuto nel non oggetto. Questo modo di conoscere è definito da Heidegger, pure in Nietzsche e soprattutto in Jaspers, come comprendere. Di qui la dialettica polare tra spiegare e comprendere, che è tipica dei filosofi dell'esistenza. In tal modo, il terreno comune del pensare, secondo la differenza ontologica che si precisa nel comprendere, sarà il terreno comune per poter mettere a fuoco la dimensione di Dio, della metafisica da una parte, e la dimensione della sacralità dell'essere dall'altra. La problematica della distruzione o del superamento serve per liberare l'orizzonte della trascendenza metafisica dalla dimensione gnoseologica del pensare, che è data dal momento scientifico, tra virgolette in generale, dello spiegare, affinché possa essere messa in luce la dimensione ontologica del comprendere. In questa problematica della distruzione cade di conseguenza pure la realtà del Dio della metafisica nel suo rapporto con la realtà della sacralità del sacro nel contesto della differenza ontologica. Il volto del Dio della metafisica viene in tal modo messo di continuo in discussione, questo è fondamentale. Ed è appunto questa messa in questione che io definisco come demitizzazione o secolarizzazione a livello filosofico. Io do del termine secolarizzazione, chiaro, un significato del tutto positivo in questo contesto. Grazie a tale particolare secolarizzazione può essere diminuita, a mio avviso, diminuita la distanza tra la sacralità dell'essere di Heidegger e il Dio del cristianesimo. Ciò non significa ovviamente che si arrivi a un definitivo superamento della dimensione di inautenticità del Dio della metafisica, perché altrimenti il Dio Cristo cadrebbe ancora nell'ambito del Dio di filosofi, per cui si potrebbe muovere nei confronti di tale Dio e quell'accusa che Nietzsche aveva mosso nei confronti del Dio della metafisica cristiana quando lo definiva come Dio ragno. Le ragnatele delle disquisizioni filosofiche sarebbero responsabili di aver coperto il volto autentico di Dio riducendolo a Dio oggetto. In tal modo Dio sarebbe caduto sotto il potere dell'uomo, ecco il punto fondamentale, cioè levare Dio dal potere dell'uomo, per cui la problematica diventa un po' a livello più largo tra potere e non potere. Allora, la secolarizzazione coincide quindi con lo stesso atto di purificare la sacralità di Dio dalle ragnatele filosofiche tipico del pensiero inteso come spiegare, per ricondurlo di continuo sul terreno del pensare come comprendere. Questo è un momento di continuo, però non una volta per sempre. Questo è il terreno del non oggetto e quindi del nulla. E proprio a partire da tale terreno, la dimensione della sacralità del sacro dell'essere heideggeriano può incontrarsi con la dimensione della divinità del Dio biblico. Ecco il punto in comune. Ciò avviene, come detto, grazie alla problematica del superamento, dove viene messo di continuo in questione appunto il pensare come spiegare, che procede nel rapporto soggetto-oggetto. Si è di fronte in tal modo a una demitizzazione, però in senso positivo, o secolarizzazione strettamente filosofica, che implica anche un risvolto teologico. Si può parlare così di un duplice modo di considerare la secolarizzazione o la demitizzazione, uno a livello scientifico e uno a livello filosofico, anche se questi due modi si intrecciano tra loro. Nel pensiero di demitizzazione o secolarizzazione a livello scientifico o metafisico teologico, si tiene presente come metro ultimo per lo più il pensiero rappresentante, quello calcolante, che procede secondo il rapporto soggetto-oggetto tipico dello spiegare, che è la base del procedimento scientifico. Nel processo di secolarizzazione a livello filosofico si tiene presente come ultimo metro di misura non tanto il rapporto soggetto-oggetto, ma il rapporto tra soggetto e non oggetto, tipico del comprendere, che ci porta di continuo di fronte al nulla. Alla base di questa secolarizzazione filosofica vi è quindi la problematica del nichilismo, logicamente nichilismo positivo, di cui il rapporto intrinseco tra secolarizzazione o demitizzazione e nichilismo. Se nella secolarizzazione a livello metafisico teologico si tiene lo sguardo aperto al Dio del cristianesimo per renderlo il più possibile accessibile alla cultura filosofica scientifica dell'uomo di oggi, nella secolarizzazione a livello filosofico si cerca di superare il più possibile la dimensione del pensiero calcolante per mettere in luce la realtà del comprendere. Solo in questo orizzonte si può parlare per Heidegger, anche per Nietzsche, per Jaspers, di essere autentico, dato che l'essere non può mai cadere nel potere, sottolineo, nel potere dell'uomo che procede con l'intelletto conoscente. Ma se si imposta la questione sotto quest'angolo visivo, si vede come nell'orizzonte del comprendere, che affonda le sue radici nel terreno del nichilismo, è precisamente positivo, sia possibile aprire un colloquio tra l'essere di Heidegger come differenza ontologica, inteso come se, nel senso di darsi, e precisamente di un necessario darsi, e l'annuncio biblico, inteso non già come dottrina ben definita, ma nel suo aspetto più profondo come darsi escatologico. Nel terreno del comprendere si incontrerebbero in tal modo le due realtà dell'essere come sacralità, quella di Heidegger e quella della Bibbia, come darsi, come necessario darsi e quindi come darsi ontologico. Ciò non significa che si intende ridurre, e sottolineo questo, la sacralità del sacro del Dio Cristo alla sacralità del sacro dell'essere scatologico di Heidegger. Tutto ciò sarebbe contro lo spirito della filosofia di Heidegger e comporterebbe il venir meno della purezza dell'essere di Heidegger come differenza ontologica. Piuttosto, con la problematica filosofica della demitizzazione, si intende soltanto mantenere aperto il più possibile l'orizzonte dell'essere come differenza ontologica e quello del giudeo-cristianesimo. Solo così può essere ridotta la distanza di inautenticità del Dio cristiano nell'ambito dell'accadere dell'essere. In fondo, la secolarizzazione, così come cerco di mettere a fuoco a livello filosofico, si rifà e quindi porta avanti la stessa problematica della distruzione e del superamento di cui parla Heidegger, anche se sottolineo in questa dinamica non solo la differenza ontologica, ma pure il rapporto con il Dio biblico. Più volte Heidegger si lamenta che le tematiche della distruzione e del superamento nell'ambito del pensiero metafisico sono state interpretate in modo falso e superficiale. Sono sufficienti brevi cenni. Nello scritto sulla domanda dell'essere si legge che quel termine distruzione si intende solo alludere al compito di liberarsi da rappresentazioni divenute vuote per poter riguadagnare l'esperienza originaria dell'essere inclusa nella metafisica. Nello scritto che cos'è la metafisica, Heidegger precisa quel termine distruzione non intende una rottura con la storia, ma solo una appropriazione di essa. Egli adopera lo stesso termine di Jaspers Aneignung. Egli sottolinea che con la problematica della distruzione si propone di esprimere l'atto di aprire il nostro orecchio per renderlo libero per la corrispondenza. Si parla ovviamente della corrispondenza alla voce dell'essere. Non senza rammarico Heidegger fa presente che molti critici del suo tempo, non escluso Nikolai Hartmann, hanno inteso la comprensione dell'essere a livello soggettivo invece di cogliere in esso il senso originario della domanda metafisica. Ed è proprio il voler mettere in luce tale senso originario che spiega il modo di considerare la dinamica della demitizzazione o della secolarizzazione. Qui precisamente quando Heidegger scrive, parole di Heidegger, il superamento della metafisica viene pensato secondo il destino dell'essere chiuso, e li delinea in fondo il modo di portare avanti una secolarizzazione a livello positivo. In altre parole, la secolarizzazione non deve essere pensata a partire da una concezione ancora scientifica del conoscere, ma a partire da una dialettica polare tra il momento di spiegare e il momento di comprendere. Tale rapporto polare non può mai essere abbandonato. Esso si trova già in Nietzsche, anche se con espressioni diverse. È sufficiente ricordare che la distinzione base tra un pensiero calcolante, Rational Denken, che è tipico del procedere scientifico, o un pensiero meditante, che è tipico della filosofia, Besinnliches Nachdenken, si legge nell'abbozzo nietzscheano del 1873 sulla filosofia nell'età tragica dei greci. Si sa che tale tesi della differenza tra scienza e filosofia, che rappresenta pure una tesi di fondo del filosofare nietzscheano, viene elaborata di continuo da Heidegger. Questi scrive che Nietzsche non avrebbe saputo cogliere fino in fondo la differenza tra scienza e filosofia, proprio perché non avrebbe saputo cogliere la differenza ontologica dell'essere come differenza. Perciò egli, secondo Heidegger, sarebbe rimasto chiuso, come tutta la metafisica occidentale, nel rapporto soggetto-oggetto, dove l'essere viene pensato come presenza. E l'essere come presenza denota il concetto metafisico di temporalità come serie continua di atti. All'essere come presenza è unita nella concezione metafisica la dimensione greca di causalità, nella quale si cala la concezione biblica cristiana della creazione. Sotto quest'angolo visivo l'essere viene messo a fuoco come atto puro, come ente sommo, come realizzazione che porta il nome di Dio, inteso quindi come perfezione suprema. Nel pensiero della metafisica moderna, invece, la verità si rivela sul piano della certezza e decade a livello soggettivo. Così nell'arco della metafisica occidentale, i portatori della verità sono, secondo Heidegger, dapprima Dio creatore e poi l'uomo come io puro. Col suo concetto di essere come non rappresentabilità, Heidegger supera da una parte la concezione dell'essere come perfezione che porta il nome di Dio e dall'altra la concezione dell'essere come io puro che porta il nome di Logos assoluto. Queste concezioni di Dio, tipiche della metafisica, che vengono quindi superate col superamento della metafisica stessa. Sottolineo però che si parla di superamento e non già di definitivo superamento. In altre parole, Heidegger intende dire che ciò che viene distrutto o superato di queste concezioni di Dio è il contesto dello spiegare che è la base di tali concezioni che portano al Dio ragno. In tal modo avrebbe luogo, anche se indirettamente, una purificazione di quella realtà non definibile che è appunto quella di Dio. Questa azione di purificazione che lascia aperta la via per il comprendere collima proprio con ciò che definisco come processo di secolarizzazione. Perciò la secolarizzazione vuol dire purificazione del sacro. Ed è appunto tale purificazione che ci porta a chiarire il senso originario della domanda metafisica. Tale secolarizzazione, ben lontana dall'essere una perdita del sacro, sarebbe una purificazione del sacro autentico che non può essere legata a una concezione oggettivante. Si può cercare di chiarire questo processo di secularizzazione se si riprendono alcuni tratti caratteristici dell'essere di Heidegger. Si è visto che l'essere è come tale un mancare, Ausbleiben, e che questo mancare rappresenta la dinamica stessa dell'essere. Questa problematica del mancare implica che la storia dell'essere si presenta come la stessa storia della metafisica che copre l'arco di pensiero da Parmenide a Nietzsche. Questo svolgimento rappresenta il destino dell'essere. Con questa considerazione viene messo in luce l'aspetto ontologico che riveste la metafisica, dato che questa, in quanto storia del mancare dell'essere, rappresenta l'espressione tangibile del destino dell'essere. Così, se la storia della metafisica è la stessa storia del sottrarsi dell'essere e se a sua volta tale sottrarsi coincide con lo stesso modo di dispiegarsi dell'essere, si vede come il rapporto tra storia del pensiero metafisico e storia dell'essere sia intrinseco. Da questa constatazione si deduce che se la problematica metafisica, come con Platone e Aristotele pone la questione sul teion, la metafisica si rivelerà intrinsecamente come teologica. Ed ancora, dato che il rapporto intrinseco tra storia del pensiero metafisico e comprensione dell'essere risulta come la problematica di Dio tipica della metafisica sia intrinseca alla problematica dell'essere. In tante parole, il discorso tipicamente metafisico su Dio non può rimanere fuori del filosofare ontologico di Heidegger, è ovvio. Di questo aspetto problematico dell'essere si era già parlato. Ma esso riceve un ulteriore approfondimento se si tiene presente quella tesi di fondo di Heidegger secondo la quale non dipende dall'uomo ma dall'essere se la metafisica è dimenticanza dell'essere. Ripeto, non dipende dall'uomo ma dall'essere se la metafisica è dimenticanza dell'essere. In questa considerazione si inserisce la problematica dell'impotenza dell'uomo rispetto all'essere. Se è vero che l'essere, o meglio la sacralità del sacro, si dispiega nell'uomo, è altrettanto vero che l'uomo non può mai esaurire tale sacralità del sacro. Questa tesi vale pure per Nietzsche e per Jaspers. Tale non potere dell'uomo sull'essere si basa sulla finitudine del conoscere a livello dell'intelletto conoscente, che rimane legato all'oggetto conosciuto. Il prendere coscienza di tale non potere significa prendere coscienza dei limiti del conoscere tipico dell'intelletto calcolante e quindi aprire l'orizzonte del non conoscere. La secolarizzazione è quindi questa presa di coscienza della tesi di Heidegger che la dimenticanza dell'essere non dipende dall'uomo ma dall'essere stesso. Così si spiega perché tale secolarizzazione non si fondi sul pensiero calcolante tipico del procedimento scientifico, ma sul comprendere. Questa dimenticanza dell'essere, che non dipende dall'uomo ma dall'essere stesso, può essere chiarita come il rimanere non pensato. Il non del non pensato ci porta appunto di fronte alla problematica del nulla, non a livello gnoseologico ma ontologico. In altre parole, se questa realtà del non non dipende dall'uomo, pur dispiegandosi nell'uomo, ma dall'essere, è ovvio che essa non può essere messa in luce grazie all'intelletto conoscente. Tale realtà è il mistero, è il sacro. Si tratta ovviamente di un mistero a livello ontologico. Nelle diverse espressioni metafisiche si sottolinea invece nella realtà del non il momento gnoseologico e non quello ontologico. Di qui le varie espressioni del volto di Dio che si presentano come espressione di inautenticità del divino e che devono essere di conseguenza di continuo superate. Tale tesi che la metafisica dimenticanza dell'essere, la dimenticanza non dipende dall'uomo ma dall'essere, può venire chiarita ulteriormente se si sottolinea non solo l'aspetto dell'essere come assenza, ma pure l'aspetto dell'essere come presenza. L'essere come assenza viene messo in luce se si tiene presente la storia del pensiero metafisico, mentre l'essere, e questo è importante direi questa osservazione, mentre l'essere come presenza viene messo in luce se si tiene presente la realtà dell'essere come differenza ontologica. Tale aspetto dell'essere presenza viene messo a fuoco nella tesi di fondo di cui si è parlato sulla storicità dell'essere. Non si tratta quindi di essere presenza come sostanza, ma di essere presenza come darsi, come evento epocale, quindi come rivelazione. Tale darsi si precisa come storia e destino. Questi due modi dell'essere, come assenza e come presenza, nel senso di darsi, rappresentano il modo di essere della sacralità del sacro, tipica dell'essere come differenza. È ovvio che questi due aspetti dell'essere, quello del non, cioè dell'essere come non pensato, e quello dell'essere come darsi, si incontrano e si intrecciano qualora la dimensione gnoseologica del non venga superata da quella ontologica del non come mistero, cioè qualora lo spiegare la si possa comprendere. Grazie a questa azione della secolarizzazione, l'essere si mostra nel suo aspetto autentico di sacralità e di storicità. Grazie, scusate.